ci attacchiamo in coda ai punks con un contenuto ibrido che non rientra del tutto nel lato punks e non del tutto nel lato elettronico. È un reading di un testo di narrativa di viaggio a basso costo, branca psiconautica amatoriale, in cui si parlerà di feste e sostanze. Il testo originale sarebbe accompagnato da disegni e immagini, è una pseudocronaca, ma non la possiamo mostrare in radio, per cui in funzione dell'emotività espressa dal testo abbiamo montato un sottofondo musicale con brani sufficientemente marci per suggerirne l'atmosfera, appunto. Questo testo durerà 15-17 minuti. È contenuto nel numero 2 in prossima uscita della fanza Piatti Sbeccati di Roberta Scomparsa. È una fanza autoprodotta a fumetti. Il reading è suo, montato con l'aiuto di Taba di Bologna Elettrica, e i pezzi in accompagnamento, i brani musicali, sono di Trifasè, Technomobile Squad, The Clean, Country Teasers, Miles Davis. I sottofondi invece di questa introduzione che faccio li ha registrati Eugenio con l'armonica, con cui fa beatbox. Buon ascolto! È un sabato pomeriggio di inizio dicembre. Prendo un treno dopo pranzo per raggiungere Milano, che è un pezzo che non vado su, e l'occasione stavolta è la bolla. Da Bologna salgo quasi al volo, su regionale in partenza diretto a Piacenza. Il viaggio fila liscio liscio, anche se ogni tanto mi alzo per controllare il controllore. Come al solito cambio spesso posto, all'altezza di Reggio Emilia lo supero facendolo a Gnorri. Ho la coincidenza di un minuto con il solito treno Nord a Bestia, senza capotreno, quello che va a Greco Pirelli, ma la perdo per una manciata di secondi, consumandomi in una corsa a perdifiato nel sottopassaggio, ma mi si chiudono le porte in faccia e rimango a Piacenza ad aspettare un'ora al successivo, con contorno di bestemmie. Non ho fretta, valgo le sfighe a mio vantaggio e nel frattempo mi metto a disegnare su una panchina di marmo del binario 3 gelandomi il culo. Nel pomeriggio arrivo a Garibaldi, dove si stanno tenendo gli Alter Bay, i mercatini di Natale dei Ravers, e mi faccio qualche bicchiere di brulè con i vari e amici e che incontro. Stasera c'è la festa in zona Milano e ci spostiamo a casa di Psyduck sulle 22 per mangiare e aspettare che escano le info. Taccheggio parte della cena e una crostata di albicocche da integrare alla pasta al pesto che abbiamo già. Mi accollo pure di cucinare, che sono quella che ci sta più dentro di tutti, ma qualcuno passa il turno poiché la rovinosa droga è responsabile di numerosi pasti inappetenti. Gli spaghetti che preparo sono proprio ignoranti. Tolgo un cucchiaio di muffa superficiale dal vasetto del pesto di rucola in frigo e lo svuoto nel tegame. Nessuno a parte me lo sa, e se ci viene la diarrea penseranno se la speed. Ci dividiamo 4 cotolette in 5 perché quelle fanno più gola e nessuno ci rinuncia. Stemperiamo con birra e stappiamo un vino. Passata la mezzanotte comincia a circolare la zona della festa attraverso passaparola e capiamo essere in Forlanini, Milano Est. Superata la fatica iniziale, usciamo di casa prima che finiscano i mezzi pubblici per arrivarci. Sono con Abete, Tetsuo, Psyduck e ci sono anche Morredo e Teodolinda. Dalla 92 cambiamo sui viali con un tram 27, inizio secolo, di quelli stampati sulle cartoline, che arriva già imbottito di festa a Ioli. Questi momenti sono in genere tra i miei preferiti, il viaggio verso la festa e l'arrivo in festa, che rappresentano una degustazione e un pronostico. A noi si è unita anche Annerelle e amici suoi di Brera. Scendiamo a 100 metri dal posto della festa e due vagonate di raver, uscite da tram Belle Époque, si mettono ad esultare, la nostra immagine da cartolina, diretti in mandria verso il grosso cancello dell'ex CAM, dove è stato appeso uno striscione che segnala la tazza in corso. Oltre alla cancellata, la prima cosa che noto ad accoglierci è un gruppetto spelacchiato, radunato in cerchio a riscaldarsi attorno ad un fuoco acceso sull'asfalto. Comincia il medioevo post-apocalittico autogestito. Ore dopo, mattina inoltrata, lo stesso bivacco, tenuto in vita chissà come, non essendoci legna in piena zona industriale, ha fumicherato i fumatori di stagni intorpiditi, alcuni di loro seduti su due bidet sradicati con tutta probabilità dai bagni fuori uso dell'ex CAM. Un quadretto che da incartonata mi ha divertito molto. Decine tra auto e camper sono parcheggiate già nel cortile del fabbricone, tutto intorno all'ampio boulevard d'ingresso che 10 ore dopo diventerà il ponte tibetano di una plateale catwalk in catch. Attraversando il corridoio di case mobili accampate, tradizionalmente disposte prima dell'entrata, arrivi alla bocca della festa, davanti alla quale si è radunata una grossa folla ammassata e scalpitante di farsi fagocitare al prezzo di 2-3 oboli benefit. Qualcuno nella mia ciurma, forse abete spazientito, suggerisce di sfondare le casse per entrare in massa, come si è fatto altre volte e come prima o poi capita quasi ogni festa. Rimanendo in coda con altre 200 persone, pare non si avanzi neanche di poco. Abete e Tetsuo collano immediatamente una busta di speed con Morrado e Teodolinda. Io e Psyduck, conquistiamo una roglia dell'amicizia e la smezziamo. Lui è in modalità psichedelici. Questo significa che farà comunque tutto quello che gli capiterà sotto il naso, ma che il tema principale saranno gli psi. E cerchiamo insieme dei trip, perché anche a me va di schiopparmene mezzo. Un giro dell'accampamento, affacciandoci ad ogni finestrino di camper aperto sul lato sentiero, e conquistiamo gli ultimi due cartoni da 150 che un legionario del multiverso estrae di saccoccia. Psyduck se lo cala intero, ovviamente, mentre io smezzo con Tetsuo e Abete, che ne mangiano un quartino a testa. Intanto la coda non è diminuita. Ci deve essere un altro modo per entrare senza passare per forza dal portone ufficiale, che stiamo evitando non per non dover pagare, ma per saltare la coda. C'è sempre un altro modo per entrare in festa. Seguiamo Psyduck, che ha fiutato una pista giù dalla rampa di cemento verso cui procede con sicurezza. Entriamo da una porticina che ha accesso ad una fila di scale e a un corridoio di uffici separati da vetrate zozze, e percorrendo questo fino alla fine scendiamo qualche gradino e arriviamo tutti contenti nel backstage della festa. È stato facile, serviva solo prendere l'iniziativa. Quanto tempo è passato? Pochi minuti, credo, ma l'ingresso di prima è deserto, perché in tutto questo hanno già tolto l'entrata a pagamento. Si apre davanti a noi il luogo prescelto per questa nuova bolla di libertà in un mare di merda. L'ambientazione cyberpunk del mio anelato weekend utopistico. Dunque, il posto è una tipica ampia distesa di cemento coperta da un soffitto alto circa 5 metri, con la particolarità che uno zoccolo di 60 cm corre su tutta la lunghezza dell'area e divide area sound, sopraelevata, da zona parcheggio. Ma per salire o scendere ogni volta bisogna chiedere a chi è seduto di fare spazio al passaggio, a riprova che il gradino è diventato subito il posto più comodo per stendere o piazzare. Su di una paretona stanno immancabilmente pittando. Qualcun X fa bombing e mi soffermo ad osservare le mille sfumature heavy metal di fanta insettoni iperrealisti, proprio ben fatti, d'altronde come chi li ha realizzati, e penso, arte raver. Il muro di cassa è bello lungo e variegato, con numerosi incastri sopra cui, per complicare la mia comprensione del tutto, stanno proiettando forme optical dai colori acidi. C'è già molta gente di fronte al sound, molta gente in generale. Con Tetsuo ci sporgiamo a destra del muro di casse per guardare oltre, lo squarcio sulla tela. Stranamente c'è tantissimo spazio per i la DJ di turno, che nel vuoto del retro sembra patire il freddo addirittura, e parliamo della decentralizzazione di chi suona techno con la K quando ormai ci è salito. Difficile riordinare temporalmente gli eventi da qui in poi, non è manco il modo giusto per raccontarli in questo caso. Girovaghiamo un po', balliamo, ma ci sono ancora troppe persone e poco spazio sotto cassa per stare bene. Ad un certo punto della nottata, Tetsuo si cala una pasta e me lo ricordo che mi fa discorsi di qualche tipo con la mandibola a fanculo e la faccio un po' incattivita. Lo lascio con dei suoi amici del Belle Arti per ribeccarlo più volte in seguito e vado in perlustrazione. Ah, qui c'è il bar, mentre qui sono collocati i banchetti, questo era gli Alter Bay, ecco la zona di riduzione del danno di lab, eccetera. Cerco ciò che mi è familiare innanzitutto, perché in cartone, alle feste, non è sempre facile. Ogni tanto ritroviamo un gruppo di amici seduti da qualche parte e ci uniamo a loro. Cesca è vestito quasi come al solito, ma l'accostamento di giacca tecnica, blu-nera, da sciatore e occhiali sportivi lo fa sembrare appena sceso da un pullman per Cortina. Ogni qualvolta lo si incrocia, scappa qualcosa tipo «Sci di fondo in festa stamattina» o robe così. Percorro con Tetsuo la parte di fabbrica adibita ad uffici, quella da cui siamo entrati di sgamo. È un corridoio pieno di stanze comunicanti, separate da muri di plexiglass, ancora intatti, ma molto impolverati e sporchi per lo stato d'abbandono, e ora anche pieni di tag di gente della festa, felicemente indecorose. Si capisce già dai liquami e dalle tracce che domani mattina alcune di queste stanze si saranno trasformate in latrine gender free. È buio e non c'è illuminazione. Usiamo la torcia del telefono per addentrarci. Ho l'impressione di vedere ogni tanto delle ombre che mi sfiorano le spalle, ma sono solo suggestioni da trip che dopo ore comincia a sferrare anche i suoi colpi sinistri. Li so riconoscere e non mi faccio sorprendere male. Poi in realtà vere ombre ci sono anche, in quelle stanze che restituiscono l'impressione di trovarsi in un labirinto di specchi. E si tratta di altri in fattanza come noi che esplorano, piazzano, sfattonano o si imboscano per cagare e pisciare. Noto che sul pavimento di ogni stanza, posizionata al centro, ci sono delle inquietanti box nere. Sembrano le scatole avvelenate per la deratizzazione, quindi potenzialmente pericolose, ma usando un po' di logica e osservandole meglio ore dopo la luce delle infiltrazioni di sole, scopro trattarsi di colonnine comprese elettriche. Un tempo necessario a quegli ex uffici. Avrei voluto salire sul tetto, attraverso una scaletta di ferro arrugginita, che avevo vista a fianco al bivacco dei bidet, ma in pieno trip, quando tiro fuori l'idea, Bacca viene a dirmi che è stata sradicata per sicurezza, per evitare che gente come me si arrampicasse e sfattonasse giù bestialmente. Camminando lungo il cortile dei camper, con Psyduck, vediamo scene pese che stranamente non intaccano la nostra euforia. Un tizio viene linciato da un gruppo di persone incazzate e probabilmente buttato fuori dalla festa per aver fatto qualcosa che non doveva. Osserviamo più attentamente, più da vicino, cercando di capire meglio, ma niente, si muovono troppo veloci e nel nostro stato è impossibile distinguere figure separate. Lo vedo ad un tratto disteso a terra, a pancia in su, con gente che intorno parla e si urla addosso. Psyduck, avvelenato il doppio di me, vede pure del sangue da qualche parte, a condire la scena, cani che si abbaiano contro incattiviti, come nelle guerre puniche. E nonostante tutto, con estrema tranquillità, ci diciamo, vabbè, cambiamo posto. Fine del Colosseo. Bella lì rega, siamo ancora qua e facciamo un altro intermezzo e dopo sentiremo la terza parte del racconto di Roberta e vi lanciamo una canzone di Bixby che proviene dal suo ultimo EP, fra l'altro stampato anche in vinile per tutta l'Europa e thank you. Rieccoci qua in diretta da Bologna, e questo era Bixby con Island numero 1, traccia del suo EP. Bixby suonò a tutte, penso tutte le edizioni di Bologna Elettrica, in una veste molto più techno di questa traccia. Infatti di solito aveva un ruolo di spingere durante la serata. E sempre presente anche con la loro etichetta, giusto, mi dicono al di qua, con la Random Numbers. E adesso potremo ascoltare l'ultima parte del racconto di Roberta sui free party. In cui mi trovo anch'io. Scopro trattarsi di colonnine comprese elettriche, un tempo necessario a quegli ex uffici. Avrei voluto salire sul tetto, attraverso una scaletta di ferro arrugginita che avevo vista a fianco al bivacco dei bidet, ma in pieno trip, quando tiro fuori l'idea, Bacca viene a dirmi che è stata sradicata per sicurezza, per evitare che gente come me si arrampicasse e spattonasse giù bestialmente. Camminando lungo il cortile dei camper, con Psyduck, vediamo scene pese che stranamente non intaccano la nostra euforia. Un tizio viene linciato da un gruppo di persone incazzate e probabilmente buttato fuori dalla festa per aver fatto qualcosa che non doveva. Osserviamo più attentamente, più da vicino, cercando di capire meglio, ma niente. Si muovono troppo veloci e nel nostro stato è impossibile distinguere figure separate. Lo vedo ad un tratto disteso a terra, a pancia in su, con gente che intorno parla e si urla addosso. Psyduck, avvelenato il doppio di me, vede pure del sangue da qualche parte, a condire la scena, cani che si abbaiano contro incattiviti, come nelle guerre puniche. E nonostante tutto, con estrema tranquillità, ci diciamo, vabbè, cambiamo posto. Fine del Colosseo. Dal cortile esterno, se alzi lo sguardo oltre la murata di cemento armato, si vedono i cartelli direzionali dell'autostrada, da cui siamo separati. Un'ottima allucinazione metropolitana. Bacca balla energica nel suo piumino bianco madreperlato, muovendo la testa a destra e a sinistra e tenendo i gomiti alti. Qualcuno la definisce tecno-guerriera e qualcun altro le si avvicina per dirle qualcosa. Vedo Abete stagliarsi in mezzo alla folla che sta sotto cassa, dove mi trovo anch'io ora. Lo riconosco dalla giacca di velluto a coste e dalle movenze feline, che sono le stesse di quando si trova nel pit, con la differenza che qui si guarda attorno con aria nettamente più allucinata, il cappuccio in testa ed i capelli ingestibili schiacciati dentro, fuori escono arricciati ad alto voltaggio. Le sue espressioni riflettono la meraviglia per le facce smostrate altrui e in quel momento empatizzo a distanza, riconoscendo lo stato emotivo in cui mi trovo anch'io. Maschere carnevalesche tutto intorno, rese ancora peggiori dalle varie strobo intermittenti. Un gruppo di freaks con sacchi di biscotti Space stesi su un tavolo da sagra ci passa in mano un cilotto quando accostiamo. E io non so perché rifiuto e non so sempre perché non compro neanche un biscotto. Durante il mio viaggione ballo poco, ma in trip è così, non te la godi come quando prendi altre robe, tipo metanfetamine. Sono presa da mille cose che vedo, mille stimoli sensoriali, specie non trovo il mio spazio lì, in mezzo a tutta quella marmaglia che mi viene addosso, e devo farmi un giro ogni spesso, per decomprimere e soprattutto per cambiare panorama. Con la luce del sole, assieme a Tetsuo, faccio altri giri per il posto. Esploriamo spazi che fino ad allora non avevamo considerato. Accompagniamo Pulcinella alla fermata del tram che, tutto in down, con i pantaloni beige pezzati di vino rosso, si accinge a raggiungere casa di Cordelia per un pranzo domenicale con i suoi di lei, in cui sta andando a non mangiare. Mi ricordo di aver trovato Menta, con gli occhi liquidissimi seduta su una muretta fuori dall'area sound. Ci racconta dell'incidente che Brighella ha avuto il giorno stesso. Voleva venire anche lei in festa, ma si stava ancora riprendendo dallo shock. Fortuna che non si è fatta nulla. Commenta e Psyduck torna nelle stanze degli uffici e con la luce del mattino, osservando il pavimento, realizzo che le impronte di fango sparse per la stanza stanno ballando come matte e mi ricordo di essere fattissima. rivivo anche il grande classico di quando vai a pisciare e ti accorgi della roba organica al suolo che, mescolandosi alla tua miscela, crea alla vista l'effetto dei colori arcobaleno sulla benzina, ed è sempre suggestivo. Nel labirinto di specchi, un tizio mi mostra un telecomando marcio che ha sicuramente trovato nell'ultima stanza, dove c'è un intero cassetto ammuffito contenente chiavi di ogni tipo e indefinibili oggetti stagnanti. Lo so, perché è un livello che ho già superato. Visibilmente divertito, mi chiede se lo voglio comprare, che è l'ultimo modello di qualcosa che non ricordo. Gli sorrido rispondendo che avevo visto anch'io quello stesso cassetto putrido prima, ma che non avevo voluto toccare la roba che ci stava dentro. E coraggioso lui. A mattina inoltrata, dentro al cancello, è stato allestito un infopoint dei pirati. Gente del Branca, perché mi ricordo di Locusta Smagliante seduto là dietro. Ci sono fanze varie, tra cui anche ad attirare la mia attenzione, manuali di sabotaggio DIY, fumetti underground di epoche passate e numeri di decoder fotocopiati malamente. Voglio comprare qualcosa, perché di solito ai banchetti in festa non compro mai una sega, dato che i banchetti in festa per me non sussistono. Ma stavolta trovo il tempo di guardarli, o meglio, di tempo ne ho da vendere e da spendere, prima che mi scenda. Ma non voglio nemmeno finire completamente i soldi. In trip, come un vigile capriolo, mi tengo lontana da ogni possibile rischio, così anche dover cercare i soldi rappresenta una difficoltà non indifferente e implica, una volta trovati, la possibilità di perderli per non starci dentro o finire per spenderli in cose non giustificabili come queste fanze che accumulerei soltanto, lo so. Me ne vado nel primo pomeriggio, quando mi è scesa tutta e comincio ad accusare la stanchezza. È l'alba di un nuovo down. Saluto i pochi eroi ed eroine rimasti, nonché amici e amiche, e me la squaglio. Uscendo fuori dal cancello faccio un giro tra le auto in sosta per scegliere dove pisciare nuovamente, e il sole audace mi arrostisce la carcassa facendomi sentire più svuotata che mai. Mi dirigo verso il tram, dopo aver per l'ultima volta buttato l'occhio al posto dall'esterno, e allontanandomi rileggo sul lenzuolo appeso occupazione qualcosa. Wow, bellissimo testo, bellissima lettura e ottima chiusura sulla sciaffolata di Miles Davis. Ma torniamo a noi, torniamo qua in questo situazionismo notturno, e che mi piacerebbe parlare un po' con gli altri regas del collettivo per spiegare anche a voi che ci state ascoltando che cos'è questo project, questo collettivo e questa intenzione di portare avanti questo do it yourself musicale. Ne vorrei parlare appunto con Mr. Scarico Merci e il gelataio. Gelataio, rompa lei il ghiaccio, subito lei, così, cioè lubrifichi la situazione, gelataio. Ci parli, inizi a parlare un po' di Bologna Elettrica. Scusate ragazzi, cambio di programma, Scarico Merci al mic. Sì, intervengo io, facciamo un piccolo recap dei principi, diciamo, che abbiamo cercato di farci guidare in queste prime tre edizioni, almeno di Bologna Elettrica. Abbiamo sempre cercato di concentrarci, di porre l'attenzione sulla scena locale, sui musicisti della nostra città o che avevano a che fare in qualche modo diretto con la scena musicale elettronica di questa città, perché abbiamo sempre creduto che per fare una festa non sia necessario chiamare il grosso nome della situazione, qualcuno che deve farsi centinaia di chilometri, quando abbiamo tanti talenti in casa, spesso inespressi o che non hanno la possibilità di farsi conoscere. E questo va a braccetto ovviamente con la necessità di creare una situazione in cui tutti siano ammessi, in cui non ci siano problemi ad attraversare i posti che noi animiamo, e quindi fare in modo che non ci siano discriminazioni di nessun genere, nemmeno nella produzione della festa in sé. Ed è questo il motivo per cui, diciamo, il modo in cui sono nate le nostre scalette. Giusto, gelataio? Giusto. prestissimo. E sì, parliamo un po' della filosofia quindi che ci stava dietro. Ovviamente un festival con prezzo accessibile, e questo ce l'ha consentito uno spazio libero come XM24. E sì, diciamo che il collettivo si è ampliato piano piano negli anni, e tipo molti organizzatori erano anche, diciamo, musicisti, altri più dentro XM, altri meno. E quello che si è sempre detto fin dall'inizio, abbiamo messo questa regola perché volevamo far capire che fosse un festival fatto per la città. Chi organizzava non doveva suonare, perché spesso capita, abbiamo imparato, che c'è sempre una smania di suonare fra i musicisti, e dobbiamo dire che a volte è stato complesso questo da attutire. Però avevamo messo anche la regola, cioè che se il collettivo discutendo diceva: guardate, qui ci sta bene il set del tizio tizia del collettivo, lo si faceva suonare ovviamente. E in questo abbiamo trovato il nostro equilibrio, e dai, ce l'abbiamo fatta fare tutte le tre edizioni in un modo, penso, abbastanza equilibrato, che la gente capisse il messaggio che ci stava dietro. Poi durante un festival ovviamente cercavamo di mettere un po' tutti quelli che volevano esprimere la propria arte, quindi c'erano anche installazioni performative in contatto con le persone. E ci fu infatti nella terza edizione anche tutto un open call sulle performance, ci fu dal pomeriggio una varie svariate ore di tanti artisti performativi. E c'è da dire che lì è stato molto più semplice, ci chiediamo anche il perché, c'era una componente femminile molto più ampia rispetto a quella musicale elettronica, che purtroppo nelle nostre ricerche è sempre quasi stata maschile, e a parte mi viene in mente Tuglia, Benedicta o adesso non vengono i nomi, scusatemi. E i workshop sempre di in mano a Svarielli per tutti i tre anni, dato che nessuno si voleva affiliare questa grande sbatta, questo accollo. E Svarielli, cosa c'è da dire? Beh, senza dubbio i workshop sono stati, da un punto di vista organizzativo, anche perché non mi ritengo una persona logisticamente così preparata, un grande accollo, però con grandi soddisfazioni. No, il bello del workshop era il fatto che si poteva portare il discorso di do it yourself anche nel pratico, ovvero potendo, l'idea era quella comunque di dare la possibilità ai partecipanti di entrare in contatto o con filosofia di altre persone che lavoravano secondo appunto questa filosofia DIY, o proprio mettere le mani in pasta e iniziare a produrre il giorno stesso oggetti appunto che avevano a che fare col suono. Faccio degli esempi per dire: molto bello fu il workshop di Cyclone Device, che salutiamo, che era, questo è il secondo anno, perché il primo anno io non ero come artist, di conseguenza, tornando al discorso di prima, non potevo essere nell'organizzazione con il progetto Trigonometria, scusate l'autoreferenzialità, sarà la prima e ultima volta che succederà. E no, e invece Cyclone Device portò appunto per 10 persone nel pratico, e tutti chi voleva poteva assistere, e con prezzi, con appunto cercare di ridurre al minimo il costo, perché uno dei problemi grossi dei workshop che si trovano comunque in giro è il fatto che comunque magari ti dicono: ah, se vuoi ti insegniamo a costruire un distorsore, devi darci 400 euro per i materiali, la manodopera. Quindi ovviamente questo crea già un minimo di una barriera, cioè, che è comunque la parte economica, ed è importante riflettere su questo, perché ovviamente non rendi accessibile a tutta la conoscenza per poi portare avanti questa filosofia anche nel proprio piccolo. E invece e appunto Diego di Second Device è super entusiasta, invece di lavorare in maniera veramente super free per costruire questi pedali, vennero costruiti dei boots, pedali boots, e fu veramente molto interessante, molto una lezione del dottor Pulp in chiave cyberpunk. Oppure, adesso poi la smetto di essere prolisso, il workshop di Igor, che salutiamo anche lui, sui modulari, tutto un mega svario. Si parlava di modulari, veramente molto interessante, Valerio Maiolo che ha suonato, che abbiamo mandato prima con Vertex durante il brano di Roberta Scomparsa su Pure Data, e tanti altri molto molto interessanti. Rieccomi. E sì, si può dire anche che gli spazi furono molto diversificati durante gli anni. Diciamo che dopo il primo test del primo anno, che incredibilmente ci fu una grande risposta della città, si riempì già da presto tutto lo spazio di XM, abbiamo dovuto ragionare gli anni successivi nel come gestire questo flusso, perché insomma il nostro intento non era tanto quello di essere il più grandi possibile, ma di proporre dei contenuti interessanti. E da lì abbiamo deciso di spingere semplicemente le parti pomeridiane con più cose legate ai workshop, a performance, a DJ set open air, e da di lì sì, dall'ultimo anno infatti il pomeriggio secondo me è stata la parte più bella, perché di notte veramente la calca fu troppa, e devo dire che la parte notturna secondo me è riuscita meglio i primi due anni, devo dire. E niente, mandiamo subito una traccia di Fera, ovvero Andrea De Franco, che fra l'altro va anche il banchetto all'Ole Festival, perché anche lui è un grandissimo illustratore, con la sua, come si dice, non stamperia, ma con Depress, è la casa editrice indipendente, scusate. E questo qui è il suo album appena uscito, con alcune tracce secondo me di altissimo di livello, devo dire una delle cose più belle che ho sentito a Bologna negli ultimi anni. E facciamo partire il pezzo, diciamo, più techno del suo album. Tra l'altro ricordiamo anche De Franco, che nell'ultima edizione dell'Olè improvvisò un live con tre macchinette che va lì e buttò alle 7 di sera di domenica pomeriggio, buttò giù XM. Paura vera.